Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata nella quale si parlerà dell'Expo 2015 come occasione di sviluppo per la città e per la Lombardia. Do il benvenuto ai nostri ospiti che sono Roberto Daneo, che è stato direttore del comitato di candidatura all'Expo 2015, il professor Andrea Calori, docente di pianificazione territoriale Politecnico di Milano, e poi Massimo Lozzi, che è candidato della lista Amo la mia città, al quale do subito la parola per introdurre. E Gisella Introzzi, che guida la lista Amo la mia città e che non avevo visto. Lei è la guida. Prego Massimo. Buonasera a tutti. Io volevo iniziare dandovi alcune informazioni di carattere generale sull'Expo. Innanzitutto, cos'è l'Expo? L'Expo è un'esposizione universale che non ha natura commerciale. Il ruolo di Expo non è quindi tanto quello di esporre le maggiori novità tecnologiche, ma è piuttosto orientato all'interpretazione di quelle che sono le sfide collettive che l'umanità è chiamata a rispondere. Nella storia dell'Expo le tematiche sono sempre state orientate in questo senso. Nell'Expo 2015, che si terrà a Milano fra il 1 maggio e il 31 ottobre appunto 2015, sarà trattato il vastissimo e ampio tema della sicurezza e della qualità alimentare per uno sviluppo sostenibile del pianeta. L'approccio e l'impostazione che verrà data alle tematiche è di carattere assolutamente multidisciplinare, poi i nostri ospiti approfondiranno meglio le svariate tematiche che si legano intorno al tema della alimentazione. Quindi impostazione multidisciplinare che verrà affrontata da diversi punti di vista, dal punto di vista ambientale ma anche storico e culturale, antropologico ma anche medico, tecnico-scientifico ed economico. E vedremo, come già vi dicevo, poi ulteriori precisazioni su questi aspetti. Alcuni dati: nei 6 mesi dell'Expo si stima che arriveranno circa 20 milioni di visitatori, per una media giornaliera di circa 160.000 visitatori, quindi il doppio di una città come Como. Sono attesi circa 130-150 paesi espositori. Al momento sul sito ufficiale dell'Expo ne risultano registrati 82. Una curiosità: non risulta al momento registrato nessun paese anglosassone, quindi no Stati Uniti, no Gran Bretagna, no Australia, no Canada, ma neanche paesi scandinavi. L'evento comporterà circa 3 miliardi di investimenti fra fondi pubblici, partecipazioni dei privati e partecipanti ufficiali. Un ultimo dato: nell'arco dei 6 mesi dell'Expo saranno organizzati circa 7.000 fra eventi culturali, di musica e di spettacolo. Per quanto riguarda la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dell'evento, è stata costituita una società apposita, Expo 2015 SPA, i cui soci sono il governo attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al 40%, la Regione Lombardia al 20%, il Comune di Milano al 20%, la Provincia di Milano al 10% e la Camera di Commercio di Milano al 10%. Una notizia abbastanza fresca: nell'assemblea dei soci del 26 aprile scorso il governo non ha nominato il suo rappresentante in sostituzione dell'uscente Leonardo Carioni, nominato dal precedente governo in quota lega. Ovviamente questo ha suscitato delle reazioni preoccupate sia dalla regione che dal comune. Oltre alla società Expo 2015 SPA sono stati nominati dalla presidenza del consiglio con decreto del 5 agosto 2011 un commissario generale che è Roberto Formigoni e un commissario straordinario del governo nella persona di Giuliano Pisapia. I commissari hanno fondamentalmente un ruolo di rappresentanza, di vigilanza e di coordinamento nei confronti del ruolo internazionale delle esposizioni. Da quanto detto risulta subito evidente come l'evento rappresenti una straordinaria sfida su più livelli. In particolare qui voglio brevemente affrontare tre livelli su cui può essere declinata questa sfida. Innanzitutto è una sfida di carattere globale. Affrontare il tema della fame nel mondo in un contesto in cui ogni anno soffrono di malnutrizione circa 1 miliardo di persone e la FAO stima in 44 miliardi di dollari la cifra necessaria per debellare la problematica. Quindi in questo contesto vengono contemporaneamente spesi 1.350 miliardi per armamenti, sto parlando di dollari, e 7.700 miliardi sono stati spesi per il salvataggio delle banche americane. Quindi la prima sfida è se e in che misura si parlerà di fame nel mondo mettendo in discussione l'attuale modello di sviluppo e le sue priorità. Questa è sicuramente una prima sfida che l'Expo si trova ad affrontare su un piano globale. Ad un altro livello, l'Expo rappresenta una sfida organizzativa e gestionale per l'Italia e la Lombardia, e il Comune di Milano. Innanzitutto una sfida sui tempi, cioè qual è lo stato di avanzamento dei lavori? Forse qua i nostri ospiti sapranno darci ulteriori maggiori dettagli in questo senso. Saremo in grado, come comunità, come paese ospitante, di completare tutti i lavori previsti nei tempi previsti? Ma non è solo un tema di tempi, c'è anche un tema di qualità. Saremo cioè in grado di garantire, mediante adeguati meccanismi di controllo urbanistico, che l'area dopo l'evento mantenga le sue caratteristiche verdi e che non rientri invece nel quadro di operazioni speculative, se non addirittura peggio, offrendo il fianco ad infiltrazioni della criminalità organizzata. Infine, su un terzo livello, l'Expo rappresenta una sfida per la promozione di forti innovazioni nell'azione degli enti locali. Penso ad un nuovo rapporto tra la città, l'agricoltura e l'alimentazione. Certamente l'IMU sugli orti non aiuta in questo senso, vediamo poi come andrà a finire. Ma questo nuovo rapporto può essere ad esempio promosso all'interno degli enti locali attraverso la valorizzazione dell'agricoltura di prossimità e la filiera della trasformazione dei prodotti agricoli biologici e a chilometro zero. Un altro tema rilevante può essere quello della sovranità alimentare, cioè il diritto delle comunità locali a un cibo salubre prodotto attraverso metodi sostenibili ed ecologici. E anche qui l'ente locale può far molto per la promozione dei gruppi di acquisto solidale, dei mercati, dei contadini, anche attraverso l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti agricoli bio e locali nella ristorazione pubblica sicuramente, ma anche privata. Un'altra sfida importante è l'opportunità di lanciare la città nei circuiti del turismo internazionale sostenibile, quindi collegare e diffondere le aree verdi, difendere e rendere accessibili i parchi territoriali di cintura già esistenti. Ce ne sono numerosi e bellissimi a Como, poco accessibili, ad esempio Villa Erba o San Martino, chi più ne ha più ne metta. Ma può essere anche un'occasione per dare visibilità alle imprese più responsabili e ambientalmente innovative. E infine un tema rilevante per Como, che è quello della relazione fra sicurezza idrica e alimentare. Quindi come assicurare un buon governo delle risorse idriche, coinvolgendo nella gestione delle risorse idriche sia l'interesse pubblico che quello degli investitori privati. Quindi quest'ultimo aspetto ci conduce, per concludere, al ruolo di Como e in particolare della sua amministrazione, visto che domenica prossima c'è il primo turno delle elezioni amministrative. Fino adesso si è sicuramente fatto poco o nulla. Gli eventi salienti si contano sulle dita di una mano. Nel febbraio 2010 è stato costituito il tavolo comasco per l'Expo, ne fanno parte esponenti delle principali istituzioni comasche, ma in quell'occasione alcuni giornali hanno intitolato, forse con un'inconsapevole ironia oppure con una preoccupata preveggenza, ora è arrivato il tempo della progettualità. Ma tant'è che pochi mesi dopo, nel luglio del 2010, Como è stata esclusa dal bando che prevede l'erogazione di contributi, circa 20 milioni, per la realizzazione di itinerari e circuiti turistici legati al tema dell'acqua in preparazione del Expo 2015. Ma non solo, nell'ottobre 2011, alla presentazione della prima edizione dell'International Participant Meeting a Villa Erba, l'amministrazione ha un ruolo poco più che di comprimaria. Tant'è vero che il giorno titola sfilata di big in riva all'Ario, ma Como resta solo a guardare. Formigoni, forse un po' preoccupato, dichiara che Como non sarà città dormitorio. Ci auspichiamo quindi tutti che la prossima tornata elettorale segni un cambiamento del vento e di maggioranza, forse unica possibilità che ha questa città per, come dire, per rientrare nei giochi dell'Expo con un ruolo basato sulle capacità, sulle qualità locali e non tanto sui giochi di potere e le spartizioni. Concludo quindi con due domande per i nostri qualificatissimi ospiti. Innanzitutto, cosa può fare una città come Como affinché l'Expo sia un successo e cosa può portare l'Expo a Como? Ma potrà Como, nei 3 anni che ci separano dall'evento, recuperare il terreno perduto e avviare politiche di eccellenza rispetto alle tematiche poc'anzi enunciate? Grazie a Massimo che ha messo in fila un po' tutti i temi che saranno trattati questa sera e ci ha lasciato con una serie di domande. Io ne giro subito un paio a Roberto Daneo. Cosa può fare una città come Como e cosa può portare l'Expo a Como? Prima di tutto però vorrei chiedere che cos'è l'Expo, come è organizzato, a che punto siamo con i lavori e se puoi accennare anche al processo che ha portato all'Expo 2015. Roberto ha preparato anche una presentazione, magari sì, che voi vedrete in giallo, è una particolare edizione perché qui vi assicuro è bianca, però per stasera sarà giallo limone. Prego. Sì, grazie, sperando che nessuno dia fastidio al colore. Grazie innanzitutto dell'invito, cercherò di attenermi alle domande, quindi di saltare qua e là nella presentazione che avevo preparato, perché mi sembra giusto concentrarsi su queste domande: cosa può fare Como per l'Expo, cosa può fare l'Expo per Como, come è nato l'Expo. Come è nato l'Expo, non so, sembra una, diciamo un autoincensamento, perché però la stessa Gisella vuole che lo faccia, nel senso che è vero che l'Expo è stata un'idea nata, detto così sembra di un megalomane, ma nata un po' da me, nel senso che avevo finito di fare le Olimpiadi del 2006 a Torino, ero direttore delle relazioni istituzionali, e stavo cercando un altro lavoro, a testimonianza che anche dopo che uno fa le Olimpiadi comunque non è che il mercato del lavoro si spalanchi automaticamente, e allora spopugliavo su internet e alla fine mi è venuta in mente che la città di Milano, che aveva appena finito la fiera di Oteo, Nuova, eccetera, eccetera, poteva avere un interesse a presentarsi come candidata all'Expo del 2015. Smirne si era appena candidata, anzi, ha perfezionato il 3 di maggio del 2006, così come va, come non va, inizio a pensare a quest'idea di un grande evento, un tema che mi è rimasto sempre a cuore già da Torino 2006, porto ancora un braccialetto, era il tema della campagna del millennio, con cui avevamo collaborato anche se tra mille difficoltà, perché il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, è molto, molto conservatore nella sua visione dei giochi olimpici. Il tema del millennio è dedicato alla nutrizione, è dedicato al tema, cioè diciamo gli obiettivi del millennio dedicati a due temi sostanzialmente, che erano lo sradicamento della povertà estrema e la lotta alla malnutrizione, poi declinati su tanti temi, dalla lotta alla mortalità infantile, alla mortalità materna, la protezione ambientale, l'accesso ovviamente all'istruzione. Però questi temi mi hanno colpito molto, dicevo non si può fare un Expo nel 15 senza pensare a questa grande scadenza che l'ONU ci ha posto, e la cosa è andata veramente così. Ho provato a fare un piccolo dossier per spiegare che mi sarebbe piaciuto fare un Expo con questo tema, eccetera. Il buon Dio ha voluto che io conoscessi già lo staff di quella che poi è stata il sindaco, che cioè era il sindaco Moratti, perché a Torino ero responsabile del programma di educazione olimpica, quindi avevo lavorato anche col ministero, avevamo portato 170.000 studenti a vedere le Olimpiadi, le Paralimpiadi e altri eventi preparatori, più tanti progetti. Quindi insomma questo è servito, perché quando ho visto questo progetto non ho pensato che fosse di un pazzo che diceva candidiamoci all'Expo. Mi hanno chiamato pensando che la cosa potesse essere credibile, fattibile, e da così è nata l'avventura. Ho chiuso con le Olimpiadi, ho cominciato con l'Expo fino al 31 marzo del 2008, quando è avvenuta l'assegnazione. Dopodiché ho preferito ritirarmi, anche quando è una scelta un po' inconsueta, ma io dico che la seconda volta che il buon Dio mi ha messo la mano sulla testa, quando il 2 aprile ho salutato tutti e ho detto non ho più intenzione di andare avanti. E meno male, perché non ho vissuto magari anni un po' di travaglio che sono stati questi 4 anni passati, diciamo almeno i primi 3 molto molto intensi. Adesso sto lavorando col Comune di Milano su un progetto che si chiama City Operations, cioè di pianificazione di tutti i servizi che la città deve mettere in piedi per l'Expo. Ho divagato, non c'entra niente con la domanda, però pensate che Milano deve accogliere i visitatori, quindi fare un piano di igiene del suolo, di raccolta e smaltimento rifiuti, di monitoraggio ambientale, sui trasporti, della mobilità, della segnaletica, di potenziamento della linea 1 della metropolitana, di imbandieramento, chi più ne ha ne metta, sono 70 progetti in una ventina di aree, 11 obbligatori, 11 aree obbligatorie e 9 qualificanti, per darvi un'idea, tra cui gli orti urbani che sono stati citati, il distretto agricolo milanese. Boh, non sto a raccontarvi troppo sui numeri, una cosa la vorrei dire sul tema, forse, che nutrizione, salute e benessere, l'avevamo pensato dall'inizio della candidatura, il tema del millennio, era stato anche un invito dell'allora governo Prodi a scegliere un tema che fosse una vetrina per l'Italia, un'occasione davvero di posizionamento di Milano e dell'Italia nel mondo, su un tema su cui ci venisse riconosciuta autorevolezza e capacità effettivamente di trasmettere contenuti al mondo, e credo che questo sia un trinomio che più o meno tutti riconoscono, anche in un periodo di crisi come l'attuale, di essere connaturato nell'Italia. Un tema che sarà declinato in tutto lo spazio espositivo, questo ci tengo a dirlo, perché molti hanno in testa chi era visitato Shanghai, che è stata un'ottima esperienza, 70 milioni di visitatori, magari un po' intruppati e a volte un po' caldamente invitati a partecipare, quindi non pienamente spontanei, però aveva secondo me 2 grandi limiti. Uno, che evidentemente i padiglioni, bisognava entrare nei padiglioni per cominciare a apprezzare il tema, mentre un visitatore deve poter percepire il tema già dal sito, deve già percepire il gusto del bello e il gusto di capire di che cosa si sta parlando nell'Expo mentre passeggia anche fuori dai padiglioni. Per il gusto del bello, Expo S.p.A. si è rivolta, secondo me, saggiamente a Dante Ferretti, 3 volte premio Oscar, che come scenografo farà la scenografia di tutta la parte Expo. E per la parte invece contenutistica ci sono vari accorgimenti di cui parlerò. E il tema è quello che veniva declinato, 2 grandi obiettivi: la sicurezza alimentare intesa come qualità, e quindi questo è il vero motivo perché fare un Expo in Italia, perché mettere l'Italia al centro di un dibattito che rilanci il tema della qualità, della sicurezza di come mangiamo, della salubrità, dell'educazione alimentare, del corretto rapporto consumatori-imprese, del consumo etico, della capacità recuperare anche il legame tra alimentazione e certi tipi di patologie che ne derivano da comportamenti alimentari scorretti. E il secondo grande tema è la sicurezza alimentare intesa come food security. Basta da mangiare per tutti. Vi do un dato: quando ho iniziato la candidatura e scrivevo il dossier, la FAO diceva che 850 milioni di persone non avevano accesso all'acqua pulita, sana e al cibo in quantità sufficiente. L'ultimo rapporto parla più di un miliardo, quindi È vero che la popolazione nel frattempo è cresciuta, ma la forbice si è allargata. Sappiamo che questi obiettivi non sono raggiungibili nel 2015. Mi piacerebbe anche che l'Italia e Milano potessero dire la loro, veramente il 2015 diventare un po' la sede di dibattito, di policy making e magari, perché no, di rilancio di una campagna del millennio più vincolante che arrivi magari al 2030 con degli obiettivi monitorati e molto più accuratamente misurati per capire dove si sta andando effettivamente, senza contare altri temi che possono entrarci, la politica agricola comune dell'Unione Europea che continua a consumare risorse in quantità eccezionale, ha ancora senso. Il tema però, qua ho fatto un rapido elenco di alcune aree, alcuni settori commerciali che possono entrarci, come vedete sono estremamente ampi, si può parlare di biotecnologie, di ricerca scientifica, si può parlare, perché no, di utensileria, prodotti per la cucina, cioè è anche un'occasione per il Made in Italy di mettersi in vetrina sostanzialmente, e francamente credo che di questi tempi ce ne sia quanto mai bisogno. Non sto a rompervi troppo sul sito, che ha la forma di un antico villaggio romano con un decumano che è il viale principale che lo attraversa longitudinalmente e il cardo che lo taglia trasversalmente. Sul decumano affacceranno tutti i paesi, diceva prima 82, hanno già confermato, mancano i paesi anglosassoni. Devo dire che gli Stati Uniti partecipano sempre con dei padiglioni piuttosto modesti perché sono totalmente finanziati da privati, lo Stato non ci mette un euro, e devo dire che non, tradizionalmente il contenuto non è mai esaltante. Mancano, ed è un peccato per il momento, Canada, Australia, Regno Unito, spero che si possano convincere a essere presenti. Molto interessante anche questo, che per la prima volta, se ci pensate, l'Expo ha preso un tema assolutamente adatto ai paesi di qualunque livello di sviluppo, non solo, ma quasi che mette al centro della tematica i paesi in via di sviluppo, ai quali fra l'altro verrà garantita una presenza qualificata in padiglioni cluster che qua vedete rappresentati, cioè si metteranno insieme i padiglioni, alcuni paesi, per esempio nella filiera produttiva del riso, del caffè, del cacao, caratterizzati da agricoltura in zone aride, per esprimere insieme il tema, e poi ci saranno anche padiglioni tematici abbastanza interessanti da visitare, perché è laddove si porranno le 10 domande fondamentali per cui un visitatore dovrebbe approcciare l'area tematica, e attraverso dei percorsi che Expo S.p.A. sta cercando di costruire sul profilo dei visitatori. Vado rapidamente al che cosa, come può portare l'Expo, facendovi vedere qualche immagine anche di questi percorsi di cui parlavo e degli eventi che ovviamente punteggeranno i 6 mesi con anfiteatro eccetera eccetera. Beh, innanzitutto Como può portare tante cose, può portare esperienze di filiera, può portare, però può portare soprattutto anche, vado sul terra terra, un bacino di visitatori che voi avete ogni anno e che va convinto e portato anche all'Expo. Quando si parla di 20 milioni di visitatori, non è detto che i 20 milioni siano innanzitutto tutta gente che arriva da chissà dove. Una parte siamo noi del territorio, lombardi, piemontesi, emiliani, veneti, che verranno magari in giornata a fare una visita. Si calcola che circa 12 milioni invece arriveranno dal centro-sud, dal resto d'Europa e dal resto del mondo, cioè da zone che probabilmente dovranno pernottare sul territorio, no? Nel senso, è difficile che uno parte da Palermo, in giornata viene a vedere l'Expo e torna a Palermo, così come è difficile che lo faccia da Londra, per capirci. A questi va trovata anche vanno convinti a venire, e per convincerli non ci vuole solo l'Expo, ci vuole un territorio in grado di portare tutte le eccellenze di cui l'Italia va fiera e per cui è conosciuta nel mondo. E in più questa gente che deve trattenersi, circa 30 milioni di pernottamenti in 6 mesi, cioè 160.000 posti letto al giorno, va sparpagliata sul territorio. Milano ha 70.000 posti letto. Questo fa capire come tra 70 e 160 l'unica soluzione è costruire dei percorsi turistici che invitino la gente a venire all'Expo, ma poi a trattenersi sul lago, in un agriturismo in campagna, alle terme, o a fare un percorso di città d'arte o a andare fino a Verona e fare l'esperienza dell'arena, eccetera, eccetera. Questa è la grande sfida dell'Expo e questo è uno dei temi, qua vedete appunto la mappatura dei letti a 90 minuti da Milano, che sono appunto 511.000, quindi qua sì che il numero diventa sufficiente, facendo sentire possibilmente i visitatori dei privilegiati andare a stare a Como o sul lago di Garda o in Liguria e non dei visitatori di serie B perché non hanno trovato posto a Milano. Quindi altro tema sicuramente sarà quello della tecnologia, molto importante, che può proporre delle soluzioni innovative a livello di fruibilità turistica del territorio, di cui beneficerà secondo me tutto il territorio regionale dopo l'Expo, è una delle cosiddette eredità immateriali. Sul tema della sostenibilità ne parleremo ancora dopo. Ecco, questo è quello che dicevo prima sulla campagna del millennio 2015. Quindi cosa l'Expo può portare a Como? Beh, direi probabilmente visitatori, la voglia di mettersi in gioco creando anche delle opportunità turistiche supplementari, penso a un palinsesto eventi coordinato per quell'anno che impreziosisca il periodo estivo che normalmente a Como già attira molti turisti. Penso alle opportunità anche economiche per le imprese del territorio. Rapidissimamente, solo per dirvi che l'Expo appalterà gare per lavori, servizi e forniture tra 1.900 milioni di euro, 1 miliardo e 900 milioni, a cui si aggiungono 495, quasi mezzo miliardo, di contratti che assegneranno i paesi partecipanti. Quando arriva la Germania, la Cina, il Giappone o l'Argentina, buona parte di imprese fornitrici, oltre che di lavoratori temporanei, li piglierà dal territorio, ovviamente, perché immagino che si debba piastrellare il suo padiglione, non andrà a comprarle in Giappone, ma si rivolgerà a qualche azienda italiana per le forniture e item per tutta una serie di servizi di gestione e organizzazione del padiglione. Quarta cosa, sicuramente valorizzare le eccellenze su tutto il tema dell'agroalimentare. Quinto, pensare già alla partecipazione espositiva. Nel Cardo, se ricordate, ci sarà il padiglione Italia e i padiglioni regionali. La Lombardia avrà uno spazio espositivo che è solitamente uno dei più visitati, quello della regione ospitante, e quindi anche lì pensate a un 5-6 milioni di visitatori che possono realisticamente vederlo nell'arco di 6 mesi. Quindi il biglietto da visita con cui il territorio di Como si presenta sicuramente è fondamentale da questo punto di vista. Mi sono dimenticato sicuramente qualcosa, c'è anche il tema dei volontari e c'è il tema delle buone pratiche che sono state illustrate prima, cioè insomma il tema dell'agricoltura di prossimità, il diritto al cibo salubre, la sicurezza idrica, lanciare circuiti di turismo sostenibile, sono tutte cose che all'Expo possono effettivamente trovare momento di valorizzazione. Grazie a Roberto. Dunque, abbiamo visto un po' come potrà funzionare l'Expo e quali potranno essere poi le occasioni per una città come Como, dal punto di vista soprattutto delle imprese, dell'accoglienza, del turismo. Ora io passerei la parola ad Andrea Calori, che come dicevamo è professore di pianificazione territoriale presso il Politecnico di Milano, si occupa di temi di progettazione e governo della città del territorio. Lui è un esperto di agricoltura in termini di filiera corta e esperto del rapporto tra territorio e sviluppo. Ha scritto anche un libro che si chiama Coltivare la città, giro del mondo in 10 progetti di filiera corta, dove pone l'accento sulla riscoperta del circuito corto di produzione agricola. Ci sarà spazio all'Expo per temi di questo tipo? Prima domanda. E seconda domanda, quali sono invece le opportunità per gli enti pubblici, per gli enti locali? Dunque, buonasera a tutti. Allora, la prima domanda non so tanto rispondere, nel senso quale spazio ci sarà nell'Expo di questa cosa, rispetto a questa cosa, ma per un motivo, o per una serie di motivi in realtà, ma per un motivo fondamentale. In realtà questo non è un tema trattato nelle politiche, nella nostra tradizione, no? Il tema della città e il cibo. nel senso di non è trattato da noi in Lombardia, ma in Italia assolutamente. Sì, è vero, si è detto, io insegno pianificazione, io sto dentro con un piede al Politecnico, con un piede sto fuori, e vengo dal mondo degli urbanisti. Gli urbanisti, come dice anche il nome, come dico sempre, appunto, urbs, urbis, cioè città, dove la città non è la campagna, quindi costitutivamente la disciplina di progetto che nella modernità, almeno nella modernità occidentale, ha pensato e pianificato le città, le pensa proprio dal punto di vista di ciò che è costruito, non di ciò che sta intorno. E nella nostra tradizione anche recente, diciamo degli ultimi decenni, italiana, quando si è cominciato a pensare alla pianificazione del territorio, cosa che è un tema abbastanza recente, ecco, se guardiamo anche il confronto tra l'Italia e altri paesi, in realtà lo si è fatto estendendo la cultura degli urbanisti al territorio. E lì le cose si complicano ancora, perché il territorio non è una città non è un aggregato di case, anche se Max Weber, uno dei padri della sociologia moderna, diceva questa cosa. Questo per dire che c'è proprio un problema a trattare, no? Per quello che non so rispondere alla domanda, nel senso che in realtà il mondo tecnico nostro, anche da quello da cui vengo io, non ha pensato tanto a questo tema della città e del cibo, anche se voi credo che sappiate, circa 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, si è superata la soglia simbolica, no? Che numerica, del 50% della popolazione mondiale che abita in città. E quindi il tema di come si alimentano le città è il tema, per certi versi, trasversale che tiene insieme. Nel senso che il come abbiamo pensato le città, io ho detto due parole così molto ad effetto rispetto a chi sono gli urbanisti, chi progetta per delega sociale, prima ancora che per competenza tecnica, chi progetta le città, no? Che si porta dietro tutta una serie di culture tecniche, pensiero, cultura, così. Allora, questo mondo tecnico non è un mondo che ha pensato il tema della nutrizione come un pensiero. Noi ci portiamo dietro una tradizione, un modello di sviluppo in cui la crescita era tendenzialmente la concentrazione nelle città di funzioni, l'organizzazione di queste funzioni. Quindi adesso non è la serata di cui si può parlare, in cui si può parlare di queste cose, ma era per richiamare il problema di ragionare di questo tema, è un problema proprio fondamentale dal punto di vista del modello di sviluppo. Io sono molto convinto che la risposta alla domanda che mi è stata fatta debba essere, certo che bisogna parlare del tema di come alimentare le città, perché se metà della popolazione mondiale abita nelle città e le città sono il cuore dello sviluppo da almeno dalla rivoluzione industriale in poi, quindi circa da 250 anni in poi, se abbiamo dei problemi di sostenibilità, che vuol dire dei problemi ambientali, ma dei problemi di organizzazione sociale e di come la società pensa la sua economia, questi sono elementi della sostenibilità, se tutto ciò per 250 anni si è concentrato nelle città, ebbene dobbiamo parlare di questa cosa. Non si può parlare altrimenti di cibo. Poi ovviamente il cibo ha mille declinazioni, che sono quelle dette prima, ovviamente, dove il cibo va dal tema della salute, alla nutrizione, all'igiene, alla gestione dell'ambiente, delle risorse naturali, all'economia, alla gastronomia, mille cose, no? Ma se devo rispondere a una domanda, io dico è difficile parlarne per i motivi che abbiamo anche detto prima di tutto tecnici e culturali, ma non possiamo non parlare del cibo delle città. Se devo pensare di come argomentare un po' questa cosa, e anche pensando che siamo a Como, che sta provando a pensare che cosa fare nei confronti di Expo, e quindi come ripensare una città che, sentivo dire prima, ha bisogno anche di ripensarsi in modo diverso. Tutti in realtà ci dobbiamo pensare in modo un po' diverso, perché il mondo evidentemente sta cambiando e non è la crisi che ce lo deve far capire, eh? Dovevamo capire anche un po' prima, ma insomma diciamo che lo stiamo pensando. Quindi tutti dobbiamo ripensare alla nostra città. E le cose che posso dire per nutrire anche la mia risposta, nutrire il pianeta, sono anche due considerazioni che posso fare osservando quello che sta succedendo in giro in Lombardia, che può essere, diciamo, portata anche come elementi di fermento, di innovazione sul tema di Expo, e quindi che può andare a nutrire quel mondo lì, e però anche cosa si sta muovendo nel mondo. Allora, parto da quest'ultima cosa, avendo qua davanti, intanto che parlava prima, durante l'introduzione, mi stavo leggendo un po' le note della conferenza che c'è stata euroasiatica, negoziati euroasiatici della FAO, che sono state la settimana scorsa in Azerbaigian. Tra l'altro notare anche questa cosa, l'Europa si trova in Azerbaigian, come sta cambiando in Azerbaigian, che forse non tutti sapevano neanche bene dov'è, perché non se ne parla tanto, ma è il luogo dove Rockefeller ha fatto i soldi col petrolio, ma non li ha fatti negli Stati Uniti i grandi soldi, all'inizio li ha fatti di là. L'Azerbaigian è il posto dove Hitler cerca, perché Hitler è andato da quelle parti di là impastandosi a Stalingrado e non è andato a Leningrado, che era vicino, ci andava con il sommergibile, perché di là c'era il petrolio. C'è tutto un mondo, ma il petrolio non è prima, dei paesi arabi sono arrivati dopo, no? Allora, interessante notare queste geopolitiche che stanno cambiando, no? L'Europa che si ritrova di là. Allora, in questi negoziati FAO stanno succedendo delle cose molto interessanti dai nostri punti di vista, perfino anche da come si pensano poi le liste elettorali, e questo è l'unico riferimento che faccio alla campagna elettorale, perché non è il mio mestiere. Nella FAO sta succedendo un cambiamento strepitoso da qualche anno. Nel 2008, quando è esplosa la crisi, no? Lehman Brothers, eccetera, eccetera, voi credo che sapete tutti, la speculazione finanziaria si è riversata moltissimo sulle cosiddette commodities alimentari, cibo, quindi riso, grano, cereali, eccetera, eccetera. Diciamo, consacrando definitivamente un meccanismo che era già molto del tutto consacrato da tempo, cioè che il cibo è una merce, considerato una merce, mentre il cibo non è solo una merce. Il cibo è un diritto, il cibo è salute, il cibo è benessere, energia per la vita, come dice Expo. Il fatto di pensare accumulato come una merce cambia le cose. La speculazione finanziaria, scappando dai mutui subprime, è andata molto sulle commodities alimentari, causando un'esplosione incredibile appunto di problemi di fame in un anno. La FAO ha calcolato 200 milioni di affamati in più in un anno. Qualcuno ha detto: ragazzi, c'è un problema, e quindi al Consiglio di Sicurezza della FAO, no? Il World Committee on Food Security, si è detto: bisogna aprire la società civile. Non che la società civile non ci fosse prima, ma c'era in forma di lobbying, come dire, no? Azioni di lobbying per cui si consultavano i soggetti della società civile, che erano sempre ben presenti in qualche modo, anche se con posizioni non si entrava nella stanza dei bottoni, e si è chiesto a gran voce da molte parti, e da molte parti, una riforma di questo Comitato Mondiale sulla Sicurezza Alimentare, immettendo addirittura con diritto di voto in diverse situazioni rappresentanti della società civile. È come se in un consiglio comunale ci fossero i rappresentanti eletti dai partiti, adesso pian piano sappiamo che le cose stanno cambiando anche da noi, i partiti sono diventati quello che sono, ma è come se nei consigli comunali ci fossero anche i membri dei comitati di quartiere. Io sono dentro, sono una delle 40 persone nominate dalla società civile a livello mondiale che sta dentro del comitato, e sono per un consiglio comunale come se io fossi il membro di un comitato di quartiere che va a votare in un consiglio comunale con diritto di voto. Questo è quello che sta succedendo alla FAO. Quindi c'è un voto che vale, se io alzo la mano valgo come la Cina. Adesso anche io la metto un po' così per farmi un po', non ce la cavate, quindi devo... Però è proprio così, in alcune votazioni la società di questi 440 membri ha diritto di voto. Allora, perché dico questa cosa? Perché evidentemente il cibo si porta dietro delle cose e dei valori e dei mondi che hanno bisogno di essere rappresentati. Quindi capire che cos'è il cibo dal punto di vista del nutrire il pianeta è una cosa che va discussa. Il cibo non è certamente una commodity, non lo è per la maggior parte delle persone. Una cosa di cui si è discussa fortemente la settimana scorsa in questo negoziato FAO era proprio questo tema: i produttori, chi sono i produttori? C'è più di 1 miliardo di persone al mondo che sono classificate come produttori agricoli. In realtà i produttori sono dei cittadini, sono delle persone, cioè 20% della popolazione mondiale è classificata così. In realtà i produttori agricoli sono anche di più, perché ci sono quelli che lo fanno per autoconsumo, eccetera, eccetera. Quindi sentire la voce dei produttori non vuol dire sentire i governi e poi qualcun altro, vuol dire sentire le persone, gli abitanti, che poi producono anche. Sentire la voce di quelli che hanno da sempre abitato certe terre del mondo e che quindi si fanno un'idea loro molto particolare di cos'è la proprietà della terra, la costruzione di regole condivise perché quella terra continua a rimanere produttiva. Questa è la sostenibilità. Sostenibilità è modalità di organizzazione delle regole, la società si dà, una di queste regole è l'economia, oikos nomos, la regola che ci diamo per il luogo dove abitiamo. Economia vuol dire questa cosa, no? Dal punto di vista etimologico. Una società si dà delle regole, alcune di queste regole sono proprio la regolazione del proprio ambiente e sentire direttamente la voce forte, molto consapevole, che non parla come noi magari, come tutti noi che stiamo qui a Como, e però che si dà delle regole perché la terra continua ad essere produttiva per tramandarla alle generazioni passate. Questa cosa noi abbiamo avuto bisogno del 92, Rio de Janeiro, la conferenza ONU che ce lo dicesse, perché abbiamo avuto bisogno di tanto lavoro tecnico, istituzionale, scientifico per dirci questa cosa, che perché abbiamo bisogno della sostenibilità, no? Se dai voce, se riapri le porte, no? Anche delle istituzioni che si occupano del cibo, a chi il cibo lo coltiva, lo vive, nutre il pianeta, no? Ottieni delle voci veramente diverse e le soluzioni che vengono pensate sono diverse perché il problema viene pensato in modo diverso, anzi in tanti modi diversi. Allora, per questo ho raccontato questa, diciamo, scena di cronaca giusto della settimana scorsa, perché di questo si sta parlando. Il nuovo direttore della FAO, che è Graziano da Silva, brasiliano, sta molto, che lui è il direttore dall'ottobre dell'anno scorso, sta molto cambiando anche l'organizzazione interna della FAO, vista appunto questa scelta di rinnovare la forma del Consiglio Mondiale sulla sicurezza alimentare, quindi portare dentro, a allargare la partecipazione, come diremmo noi, è sempre un buon modo per ripensare la natura delle politiche, cioè l'oggetto di cui ci occupiamo, insieme ai soggetti. Quindi questa è una cosa che sta succedendo. Ovviamente questa cosa non è pura e semplice, nel senso che quello che è successo l'anno dopo, anzi l'anno e mezzo dopo, è che c'è sempre il Sarkozy della situazione, che si inventa una fettina di G20, no? G7 che è diventato G8, poi G20, bisogna allargare, e certi li tieni sempre fuori, non si sa cosa fare col Brasile, con questi che emergono sempre, e non sono quelli del club di quelli che prima erano in 6, poi in 7, poi in 8, no? Deve allargare un po', ma non ci stanno mai tutti. E allora però lì, siccome ci sono ancora un po' di cose ancora consolidate del vecchio modo di pensare alle istituzioni, un piccolo club ristretto di stati che governano il mondo, allora si è inventato un G20 agricolo, proprio per continuare a tenere fuori queste voci. Quindi questo per dire che sta succedendo queste cose. La voce che viene fuori in questi mondi è ormai molto chiaramente quella che fino a pochi anni fa era la voce cosiddetta dei movimenti. Il tema della sovranità alimentare, inteso come una definizione trovata in paesi sudamericani, no? Che è cominciato il diritto alla terra, il diritto al cibo delle popolazioni indigene, no? Che noi viviamo con delle cose, dei soggetti molto lontani, che però sono la popolazione, no? Di diversi paesi del Sud America, che quindi è arrivata fino a riscrivere le costituzioni di alcuni paesi, no? L'Ecuador, avete in mente, no? Sono paesi del Sud America che hanno riscritto negli ultimi 3, 4, 5 anni le loro costituzioni. Il tema della sovranità alimentare e della madre terra, addirittura queste cose che noi sembrano una cosa un po' strana, perché sono linguaggi diversi, non sono i nostri linguaggi occidentali, no? E però lì, come dire, queste tradizioni della sovranità alimentare, che è un modo di auto-organizzarsi della comunità locale, che si dà delle regole, che quindi si dà delle istituzioni, no? Porta delle parole anche diverse, un'organizzazione sociale diversa e quindi anche delle politiche diverse. Chi sta seguendo un po' le vicende sudamericane, un po' da questa parte, sa come in pochi anni alcuni paesi sono usciti o stanno uscendo dalla crisi, dalla povertà, con strategie un po' diverse da quelle da cui eravamo abituati. Queste cose stanno arrivando anche in altri mondi, quindi questo per dire che il mondo sta cambiando, se lo vogliamo vedere di là. Secondo tipo di cose che volevo dire invece, alcune cose che stanno cambiando qui invece in Lombardia, che vanno nella direzione del come nutrire la nostra città, il nostro territorio, ma che sono in realtà cose che succedono anche per rimanere anche alla sola Europa, anche in tutta Europa. Cioè, mentre da un lato ci sono dei meccanismi piuttosto preoccupanti di crisi, anzi di morte strutturale dell'agricoltura, no? Da un lato la politica agricola che come dire, ha dedicato la maggior parte dei fondi alle grosse aziende agricole, sostanzialmente dimenticandosi sostanzialmente dei piccoli che fanno fatica ad accedere alle misure di finanziamento, e i piccoli sono proprio tanti, perché il DNA dell'agricoltura italiana è quella di piccola e media agricoltura, che fino a qualche decennio fa fino a 20 anni fa, non di più, in realtà era una potenza che si esprimeva attraverso l'organizzazione dei piccoli, i consorzi agrari, le banche, le casse rurali, le cantine sociali erano quella cosa lì e contavano, no? Gli anni d'oro della Coldiretti che eleggeva 60 deputati, si diceva, eh? Cioè erano potenze, no? E quindi, sempre per sfatare il mito del piccolo, no, non è vero, ci sono diverse modalità organizzative. Il DNA della nostra agricoltura è sempre stato quello dell'aggregazione in consorzi anche grossi, rilevanti, di tanti piccoli. Questa cosa è stata smantellata per tutta una serie di ragioni che non stiamo qui a ridire, ma cosa sta succedendo adesso? Sta succedendo che in diverse parti della Lombardia, da un lato si sta disgregando il tessuto, nel senso che stanno chiedendo molte aziende, per la crisi, per la competizione, anche l'offerta un po', appunto la competizione al ribasso sulle il cibo, la produzione agricola che diventa commodity. Se diventi commodity è chiaro che il grano che produci qua non compete col grano dell'Ucraina, perché di là costa meno per tutta una serie di motivi, no? Compreso il fatto che è insostenibile, ma quindi di là l'uso del pesticida si continua, eccetera, il costo del lavoro, eccetera. Quindi la crisi di adesso, il fatto che si è resa merce la produzione di cibo e quindi non si compete con chi comunque ha un costo del lavoro minore, eccetera, eccetera, e più perché c'è una concorrenza strana appunto della produzione agricola che non diventa più cibo ma diventa energia. Ci sono le province agricole della Lombardia, Cremona, Mantova, tanto per dire, anche Lodi, se andate in tutti i comuni, veramente tutti, hanno almeno una domanda di produzione di un impianto a biomasse, la cui sostenibilità, la cui sostenibilità è nel migliore dei casi tutta da dimostrare. Se ne vedono diverse, se ne vedono molte, è chiaro che non è sostenibile il fatto di avere un impianto a biomasse che richiede grandi coltivazioni dove si produce poi il cibo, e poi tutta questa biomassa evidentemente non c'è neanche per produrre energia, e quindi si sta scardinando il mondo della produzione agricola per questo, no? E quello che sta invece adesso, non faccio una trattazione del perché è in crisi la nostra agricoltura, ma invece delle cose positive, per arrivare poi al tema, diciamo, magari la palla al dibattito, delle cose piccole che stanno succedendo, apparentemente piccole, che però sono estremamente diffuse nel territorio, cioè una riaggregazione di aziende agricole che si riorganizzano secondo modalità che erano quelle dei consorzi agrari. Lo fanno indipendentemente dalle loro associazioni di agricoltori, tra l'altro anche in qualche caso insieme, in qualche caso in modo indipendente. Questa connessione tra un mondo di un consumo che si è reso consapevole rispetto a tutte le tematiche legate al cibo, no? Che vanno dal benessere alla salute, all'attenzione al proprio territorio, all'ambiente, che cosa si sta dietro al cibo, alla cultura gastronomica, si va dal slow food, il fenomeno. Io tutte le volte vado in giro per il mondo, prima mi dicono: ah, italiano, ah, slow food. Dico: sì, c'è anche altro, no? Però slow food è importante. C'è tutto il mondo che per anni ha fatto un lavoro sotterraneo creando i gruppi d'acquisto solidale, ma prima ancora facendo un ragionamento su che cos'è quel che hanno fatto, si diceva, il consumo critico, consumare in modo consapevole, meglio, no? Si è detto dopo alcuni anni, vuol dire appunto avere un rapporto diretto con i produttori. Non tutti lo possiamo avere per tutti i prodotti, allora come ci organizziamo? Allora non è che vai solo a prendere il salame in cascina, pure importante, ma io provo a organizzarmi con delle filiere dirette che diventano dei sistemi distributivi locali, ci organizziamo in cooperative sociali che vengono fatte da produttore e da consumatore insieme per riorganizzare il sistema alimentare a partire dai territori, no? Che è un po' una ripresa del nostro DNA, della nostra tradizione anche cooperativa, se vogliamo. Ci sono esempi, allora queste cose sono in parte di nicchia, in parte il problema non è solo la nicchia, il problema è capire qual è il seme che si getta e la speranza di futuro, la profezia di futuro, nel senso che i mondi che hanno lanciato e rilanciato i temi, no, della consumo locale, inventando dei nomi, chilometro zero, eccetera, eccetera, sono tutti mondi che vengono necessariamente da nicchie e poi si stanno sviluppando con una velocità incredibile. 6 mesi fa era già diversa la situazione in Lombardia rispetto adesso, ma nella capacità organizzativa. Non siamo ancora a livello dei giapponesi, dove ci sono 6 Katsu Club, che è nell'area metropolitana di Tokyo, ha 300.000 soci, è come un grande gas di 300.000 soci, che vedere in azione è spaventoso. loro sono giapponesi, noi no, ma loro affittano il capannone per assaggiare insieme il cibo, discuterlo con loro. C'è un'esperienza molto grossa in giro nel mondo, no? Il tema non è però il grosso, il tema è la qualità, di capire come si declina localmente il principio della sovranità alimentare, che non è quello del Sud America, perché non abbiamo problemi del Sud America, ma l'approccio è assolutamente lo stesso. Ci sono reti di consumatori che stanno cambiando aziende agricole salvate dai soldi messi insieme dalle reti di gas, che salvano il biocaseificio Tommasoni, che non aveva avuto i soldi la banca aveva dato i soldi per cominciare a fare il grana padano bio, poi a un certo punto sai qual è la notizia, c'è Basilea 2, i soldi non ci sono più, e quindi chi aveva fatto l'investimento per fare il formaggio deve aspettare 24 mesi per avere la maturazione, la banca ti dice no, 24 mesi non è un investimento, dati i soldi, in 15 giorni i gas milanesi hanno trovato 140.000 euro per tenere in piedi questo caseificio, e questo ha creato un meccanismo di investimento, insomma è stato una... Allora, di storie così ce ne sono diverse, questo per dire che, per chiudere, insomma, da quello che succede nel mondo, no? Dicevo prima, la riforma del Consiglio di Sicurezza della FAO, no? Il Comitato Mondiale sulla Sicurezza Alimentare, l'idea di riarticolare la partecipazione, rimettere dentro idee nuove, soggetti nuovi, che sono i soggetti che stanno sulla terra, che fanno l'economia, gli agricoltori sono aziende agricole, sono imprese, li puoi trovare diversi modi, anche se sono piccoli, modi di chiamarla, sono quelli che fanno l'economia, non possono non avere voce, no? Rimettere in circolo quella voce sta cambiando un'istituzione come la FAO, le parole del nuovo direttore sono diverse da quelle di 6 mesi fa. La stessa cosa è quello che sta succedendo anche sui nostri territori, dove anche ci sono comuni che stanno ritrovando un protagonismo. Stiamo facendo una ricerca a tappeto su tutta la regione Lombardia su cosa comprano le mense scolastiche, di tutti i comuni della Lombardia, abbiamo indagato l'equivalente dell'85% della popolazione lombarda, popolazione equivalente, no? Ci hanno risposto tutti i comuni sopra 3.000 abitanti, abbiamo anche un monitoraggio significativo su quelli più piccoli, il 38% del cibo del peso del cibo nelle nostre scuole è bio. Questa cosa non lo sapeva neanche Coldiretti, non lo sapeva neanche l'AIAB, non lo sapeva nessuno e non esistono politiche su questo. Come dire, il consumo sta cambiando senza che esistano politiche, e il cambiamento è perché ci sono persone che spingono, le persone sono i genitori che rompono le scatole perché vogliono che il bimbo mangi bene, sono il funzionario del comune che dice forse è meglio pensarci a questa cosa, sono il sindaco che dice forse è meglio pensare a questa cosa. Non esistono politiche su questo, perché il cibo non è mai entrato, non sono nelle politiche, no, la politica ovviamente sì, certo, ma non è oggetto di lavoro dei comuni. E però c'è un protagonismo nuovo di comuni in Lombardia che, al di là di qualsiasi politica strutturale, qua non c'è PAC che tenga e neanche il mercato, perché questo bio non lo si va a prendere in Lombardia, chiudo su questo, lo si va a prendere in Germania, da altre parti, e poi chissà. E allora c'è questa cosa strana, cioè non avere pensato finché continuiamo a non far ragionare i soggetti che sul territorio stanno innovando, chiedendo una modalità diversa di pensare il cibo, praticando forme di economia diverse, che chiedono istituzioni diverse, quindi il tema della partecipazione. Se non facciamo queste cose non si riforma nulla. Chi lo sta facendo a livello globale, a livello locale, sta innovando delle cose. Forse questa è una lezione interessante rispetto alla quale anche Como può pensare qualcosa. No? Quindi qual è il rapporto col cibo che ha Como, che ha i comaschi? Si vuole pensare che Como, grazie Expo, sia una città che in un sistema regionale ha qualcosa da dire dal punto di vista delle sperimentazioni su come nutre la propria città, il proprio territorio, su come pensa al rapporto tra produzione e consumo, l'uso delle risorse. Se non facciamo queste cose, non avremo, come dire, non avremo tanto da esporre oltre quello che sta nei padiglioni, come ci è stato giustamente detto prima. Queste persone andranno a vedere i padiglioni, ma poi non c'era la Lombardia. Sarebbe bello che uno che viene dall'estero, ma anche uno che viene da altre regioni d'Italia, dice ok, perché ci siamo candidati a fare l'Expo? Perché stiamo facendo delle cose diverse per nutrire il pianeta a partire da qua. Stiamo facendo, immettendo nuove persone che portano nuove idee e provando a dare un segnale positivo sui nostri territori. Questa è la cosa che secondo me possiamo esporre durante Expo, diciamo, nel raggio di questi 90 minuti intorno al sito dell'Expo dormiamo e vediamo delle cose, e poi dopo Expo avremo un territorio che, diciamo, è già una promessa di futuro attuata. Grazie ad Andrea Calori che ha fatto una panoramica un po' delle opportunità e anche dei grandi cambiamenti che si stanno verificando sia a livello internazionale sia a livello locale. Quindi io ne approfitterei adesso. Nel frattempo ho visto che è arrivata anche Gisella in trozzi. E ne approfitterei però per dare la parola a voi, alle vostre domande. Se c'è già qualche domanda, qualcuno vuole fare una domanda oppure dare un suo contributo, una sua esperienza sui temi dei quali si è trattato finora. Prego. Ma io condivido due suggestioni. Tempo fa, parlando di questi temi, si parlava di qualche immigranti che vengono dal Nord Africa, e c'è un esperto di solidarietà alimentare che ci faceva notare che l'anno scorso in Tunisia la rivolta la vedevamo in televisione con le baguette in mano. Prima domanda: da quando in Tunisia si mangiano le baguette? E come mai si mangiano le baguette? Risposta: c'è un sistema che di aiuti internazionali che in realtà è un nuovo colonialismo con cui noi esportiamo i nostri prodotti, noi intendo Occidente, e esportiamo le nostre culture e i nostri modi di fare. Per cui in alcune aree è stato estirpato quella che era la sostenibilità da millenni di quel territorio, che sapeva mangiare, non dovevamo insegnarti noi a mangiare. E poi il passaggio finanziario delle commodity, per cui la stretta finale su quelle popolazioni è arrivata dal sistema finanziario che ha fatto lievitare il prezzo del grano, e quindi il problema era arrivare a comprare quella baguette a fine sera. E è stato un particolare come... L'altro pezzo che volevo portare, prendo spunto dalla Barilla che ha lanciato la pasta 100% italiana, 100% grano italiano. Interessante, spero che sia un bel boomerang, perché la gente si domanderà: ma perché prima dove era? Sentivo pochi giorni fa la radio, raccontavo del pane che non solo è fatto con il grano ucraino, ma viene prodotto in Romania e con la filiera del freddo arriva ai nostri supermercati. Quindi anche la manodopera ci stiamo giocando, e in questi supermercati viene cotto e confezionato. Sulla confezione c'è scritto cotto e confezionato. Io sono umbro, produzione di olio, sapevo da anni che l'olio viene fatto con l'olive, esce 3 volte la quantità di olio che il territorio può produrre, che l'olio viene fatto con l'olive, se va bene, pugliesi, ma in realtà sono di tutto il Mediterraneo, soprattutto spagnole. Quest'estate un amico che lavora in una delle grandi fabbriche, non industria agroalimentare, fabbriche dell'olio, mi ha spiegato che ormai sono alcuni anni che non arrivano le olive, arrivano cisterne di olio che viene miscelato, viene fatto un'azione commerciale, etichetta italiana, esportata in tutto il mondo, Russia, Cina, Brasile, anche i nuovi. Qualche anno fa avevo scoperto che la bresaola viene fatta con carne brasiliana. E noi siamo bravi, siamo anche nella terra degli artigiani, siamo dei bravi artigiani che in realtà non stanno più nemmeno facendo la parte artigianale, stanno vendendo la fama del cibo. L'Italia è il paese del mondo in cui c'è la tradizione del cibo più alta, che come il turismo e come altri settori è quello su cui potremmo lavorare maggiormente per creare il nostro sviluppo, no? Perché è una ricchezza immensa che ci stimano da tutte le parti. Io dico: continuiamo in questo settore a segarci il ramo su cui siamo seduti. Perché poi da una parte, quando si parla di cibo, si interpreta la nicchia, come c'è la moda del biologico, della filiera corta, il formaggino buono. E dall'altro però ci sono le industrie che stanno, non stanno facendo sviluppo, cioè quando già ora le ditte che comprano quest'olio cominciano a capire quali sono i meccanismi, chiedono un olio italiano e sanno che è una miscela di oli mediterranei, nemmeno sappiamo spremere, no, non sappiamo nemmeno spremere, perché lo sperimentiamo già fatto, cioè cos'è che venderemo? Fino a quando riusciremo a convincere che siamo bravi a confezionare? E quando altri diventeranno bravi a confezionare, come già nella manifattura in altri settori? Cioè, se la materia prima non è più italiana, la manifattura di questi prodotti non è più italiana, noi commercializziamo e basta, ci stiamo proprio rovinando. L'ultima, nel nostro settore di sinistra spesso si dice, ma questa è roba di, per i ricchi, aspetta un attimo però, ai nostri operai, ammesso che ancora esistano, dobbiamo continuare a promettere il tavernello, cioè uno perché è povero deve bere il tavernello nel brick, o possiamo riqualificare il modo di mangiare, non tanto per il gusto dell'agriturismo, ma per un fatto di salute, tutte le malattie che derivano dal... che mi fermo qua che poi sennò poi... Grazie Marco. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego. Mi piacerebbe che, visto il tema di cui tratta l'Expo, l'obiettivo fosse l'ultimo spunto che diceva nell'ultimo intervento, quello di promuovere la produzione alimentare fatta in un certo modo, vicina, sul territorio, cioè avere questa cosa. E quello che però si percepisce, se non ho capito male i dati all'inizio, è che mi sembra di aver capito che l'Expo è un'operazione da 3 miliardi di dollari e per risolvere il problema delle fame del mondo ce ne vogliono 44 miliardi, una cosa del genere. Un decimo di quello che servirebbe a risolvere il problema della fame del mondo viene speso per fare Expo in cui parliamo del cibo per nutrire il pianeta. Vabbè, questo lo metto lì come spunto. La seconda cosa che invece volevo chiedere è questa. In Lombardia c'è un consumo del territorio altissimo. L'agricoltura si fa a sempre più delle zone che si riducono sempre di più. Non solo forse per la produzione delle biomasse, ma proprio per una serie anche di altri motivi. Allora, Expo, come tutti sanno, la preoccupazione è che poi diventi un enorme investimento di tipo, diciamo, edificatorio su un territorio che poi venga lasciato come l'ennesima cementificazione di questa regione. Su questo lei, che adesso comunque non ha più, ha detto, un ruolo attivo se non è un consulente del comune, ci può dare qualche rassicurazione se il comune di Milano si sta ponendo il problema, in che maniera se lo pone e in che maniera noi come cittadini della Lombardia possiamo essere sicuri che questa non sia l'ennesima operazione di cementificazione del territorio, anche perché abbiamo mezza giunta indagata per questioni legate bene o male a questi, legate a questi temi. È chiaro che la preoccupazione può esistere. Grazie. Grazie a Patrizia. Un altro intervento. Prego. No, una cosa brevissima. Io sono stato sollecitato moltissimo dall'intervento di Andrea Caroli, perché da urbanista come lui, devo dire, ho sempre affrontato il tema della pianificazione in termini funzionali, eccetera. E mi ha veramente appassionato questo suo ragionamento sul nutrire la città, cioè come pianificare la città attraverso i bisogni della nutrizione della città. Quindi chiedevo, appunto, visto e considerato che a Como, oltre alle elezioni, poi ci sarà da trattare il tema del PGT, il famoso piano governo del territorio, che per fortuna non è stato adottato, quindi abbiamo il tempo di metterci mano, e volevo capire se lui ha fatto già questo tipo di esperienze, se ci poteva dare qualche piccolo così esempio di come ha affrontato il tema in altre, non solo a livello magari universitario. Grazie. Grazie mille. Io direi che possiamo già passare al primo giro di risposte. E non so se Gisella vuole aggiungere qualcosa. Sì, qualcosa che poi può, anche questo costituire delle domande, anche se io ritornerò più specificatamente al tema Expo, soprattutto in rapporto alle scelte che si pongono nell'immediato per l'amministrazione della città, visto che l'impegno che anche ha dato origine a questo incontro è l'impegno di noi tutti per un cambiamento nella città, e l'Expo sarà una grande occasione. Ma io devo dire che mi sono trovata per lavoro a seguire le vicende di Expo fin dall'inizio, anche perché, come diceva Roberto, il giorno in cui gli è venuta questa idea, noi abbiamo lavorato assieme 20 anni fa, poi ognuno con strade diverse, il giorno in cui gli è venuta questa idea, una delle persone con cui aveva iniziato a dire ma ci sta o non ci sta, sono stata io. Poi per ragioni proprio di lavoro sono sempre stata coinvolta a livello regionale nei mille tavoli che si sono occupati di Expo. E una delle cose, che mi hanno colpito sono un po' queste. Innanzitutto che il messaggio originario, che io conoscevo bene proprio perché mi era stato raccontato nel momento in cui questa idea aveva preso corpo, si andava via via affievolendo, o perlomeno non era senz'altro quello attorno a cui si è concentrata l'attenzione. E di qui proprio l'esigenza, anche la voglia di poter riportare a Como questo tema con questa prospettiva, perché è una prospettiva alta, è un Expo che non è solo l'occasione di cementificazione del territorio, di grandi opere, ma è l'Expo progettato in un paese sviluppato e che quindi dovrebbe essere di grandi idee per il futuro del mondo, e quindi credo che questo debba essere ripreso un po' da tutti. Una seconda cosa che mi ha colpito è che fin dall'inizio, in maniera ricorrente, qualsiasi discorso su Expo veniva associato alla possibilità di portarsi a casa soldi e quindi un'occasione per avere risorse, per fare opere pubbliche, per organizzare iniziative. È cosa che io dico, per fortuna, anche stante la crisi, in questo caso è una fortuna che quindi ha costretto a ridimensionare il progetto e a non fare i conti con una larghezza di soldi, si è un po' si è attutita. Però sicuramente tutto il dibattito, tutti i ragionamenti, tutta la capacità di progettazione era finalizzata a questo, sicuramente la portiamo a casa. Una terza constatazione, su tutte queste cose chiedo a Roberto se è una visione un po' distorta o se condivide. La terza cosa è che di fronte ad una esigenza evidente di raccordo fra i vari livelli territoriali, fra le varie istituzioni, per dar vita ad un progetto così ambizioso, di significato così alto, mentre c'era questa esigenza appunto evidente di raccordo per gestire un progetto complesso, impegnativo, ambizioso nei suoi obiettivi, c'è stata la frantumazione più totale. I tavoli che si sono moltiplicati e separati, e quindi io penso un grosso fallimento della capacità della società lombarda appunto di fare innanzitutto coesione per ragioni di interesse. E una domanda a Roberto è se ci sono delle differenze rispetto a quello che è avvenuto in Piemonte per le Olimpiadi, che sono un evento di tipo diverso, però io ricordo ancora di come mi colpirono le parole che nell'ordine il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il Presidente della Città di Torino e il rappresentante del Governo proclamarono nel momento dell'inaugurazione delle Olimpiadi, che facevano proprio percepire che dietro c'era un sistema territoriale, istituzionale, che si muoveva con coesione. Mi sembra che questo la Lombardia abbia fatto molto più fatica a fare. Ecco, allora questo è quello dicevo che ho che mi sembra di poter constatare in queste vicende di questi 6 anni. Nel porre il problema per la nostra città, perché questo è il tema nostro oggi, ecco, io vorrei iniziassimo, dato che poi abbiamo l'ambizione di governare questa città in modo nuovo, con un cambiamento radicale, la prima impostazione credo che debba essere quello: cosa può fare Como per l'Expo? E qui alcune risposte sono state date, senz'altro organizzare in modo tale che intercettare anche quei flussi turistici che spontaneamente il territorio crea per avvicinarli ad Expo. Ma forse può essere qualcosa ancora di più ampio sul lavoro, sulla partecipazione del volontariato, per l'organizzazione, che avrà bisogno, proprio, soprattutto se l'evento è diffuso su tutto il territorio, di essere presidiato su tutto il territorio. Quindi la prima cosa che io mi porrei, e credo che sia serio che una città come la nostra faccia, cosa possiamo fare per il successo. La seconda cosa è il ragionamento di cosa può dare Expo a Como in maniera sia contingente i flussi turistici che arriveranno, ma cercherei di ragionare in maniera più consolidata, cioè fare in modo che queste persone che transiteranno per la nostra città ne escano con una immagine di Como, con un rapporto con la nostra città positivo e siano gli ambasciatori nel mondo di una città non solo bella, speriamo di rifare vedere il lago, non solo bella, ma di una città viva, ricca di spunti, ricca di cultura, ricca di storia, ricca di volontà, ricca di partecipazione di gente, di una città in cui si riesca a star bene. E quindi allora per fare queste cose la necessità di riuscire ad avere perlomeno a livello locale, fare noi quell'operazione di raccordo, di costruzione di un progetto strategico che dicevo secondo me è manca tuttora nel disegno regionale. Ecco, quindi mi piacerebbe riuscire ad avere alcuni spunti, alcune indicazioni in questa direzione, magari anche prendendo spunto, se c'è, da qualche altra parte del territorio lombardo che si è mossa bene, oppure appunto dall'altra esperienza piemontese legata alle Olimpiadi. Ecco, devo dire che poi l'intervento di Andrea Calori mi aggiunge degli ulteriori stimoli in questa direzione, perché non avevo fino a questa sera percepita l'importanza di sfruttare questa occasione proprio anche su un'altra dimensione che pure c'è cara ed è parte del programma della coalizione di centro-sinistra, di contribuire anche a un cambiamento degli stili di vita e a un cambiamento nei consumi e nelle abitudini. Quindi, e chiudo, da una parte sono molto incoraggiata, perché mi sembra che se noi sapremo lavorare in maniera approfondita e dando con una capacità soprattutto di intessere forti relazioni con gli altri soggetti istituzionali e con gli altri livelli presenti in regione, potremmo effettivamente sfruttare questa occasione di questo appuntamento per mettere insieme i diversi pezzi che ci sono tutti nel programma della coalizione, per fare in modo di avere a breve termine, il 2012 sostanzialmente è dietro la porta, avere entro quel termine l'occasione per costruire una città diversa che già possa essere percepita visibilmente come nuova e come corrispondente a obiettivi assolutamente alternativi. Grazie Gisella per questo contributo, queste domande. Io passerei ora la parola a Roberto Daneo per il primo giro di risposte, poi passiamo ad Andrea Calori. Sì, grazie. C'erano delle risposte, cioè che devo sì, non solo a Gisella, ma anche prima alla persona che ha posto le domande sugli investimenti per Expo, circa 3 miliardi, insomma, mal contati se tra parte gestionale, parte organizzativa e gestionale, la parte di infrastrutture, più o meno ci siamo, forse leggermente o meno, ma non è tanto proprio. E poi il tema del cosa si fa di quest'area, ma io in realtà sì, uno può porsi questa domanda rispetto a tante, su 3 miliardi di euro, un po' meno, rispetto a tante cose, cioè voglio dire, allora Olimpiadi di Londra, perché farle, eccetera, eccetera, se pensare piuttosto al tema degli armamenti o altre cose. Io credo che l'Expo, come un grande evento, vada considerato nell'ambito di un piano strategico di sviluppo di un territorio, di una città e di un paese. Nel senso che le Olimpiadi a Torino sono andate così. Torino a un certo punto aveva, passatemi l'espressione, il culo per terra, cosa che voi in Lombardia non avete mai avuto probabilmente. E cioè una città che si è scoperta totalmente deindustrializzata, in una crisi profondissima con la Fiat, ha cominciato a pensare a se stessa, non rinnegando la sua tradizione manufatturiera, che poi è fondamentale, ma che in qualche modo ha cercato di darsi un altro obiettivo. Poteva anche avere una capacità di sviluppare l'industria creativa, della cultura, di altre cose che fino a quel momento Torino non aveva neanche avuto la percezione di fare. E questo lo leggo anche al discorso di ci sono esempi positivi. Le Olimpiadi sono state parte di un piano strategico che la città si è data prima in Italia, dopo Barcellona, mutuando Barcellona. che l'obiettivo sostanziale è stato di un investimento che però ha cambiato questo, credo che soprattutto a livello italiano ma anche a livello internazionale si è percepito la visione di una città che fino a 15 anni fa nessuno poteva minimamente considerare come una destinazione culturale, artistica e turistica. Vi assicuro, i dati sia delle vacanze di Natale sia delle vacanze di Pasqua la mettono al secondo posto tra le città d'arte più visitate in Italia, davanti a Venezia e Firenze. Dopodiché le Olimpiadi sono state un grande spot lapsus, uno spot promozionale, è servito, no, questo non lo so, però sicuramente è servito a dare di nuovo un orgoglio a una città, a ripensarsi diversamente, a saper sviluppare dei nuovi filoni. Questo era l'augurio ed è l'augurio che io mi faccio con l'Expo, cioè che sia un investimento per il territorio, per l'Italia, per ritornare credibile su questo tema, per non essere un paese che tira a campare, in cui io faccio francamente fatica a vivere. In un paese che tira a campare non ha più una visione del futuro, i giovani non hanno lavoro perché non si investe più sul futuro, su niente, cioè non c'è proprio una visione di crescita del paese. Giusta o sbagliata che sia, l'Expo ha cercato di mettere in mezzo al dibattito mondiale il fatto che l'Italia forse poteva portare su questo tema, su questi valori, un proprio contributo e diventare una visione, magari un po' semplificata, come diceva Andrea prima, vai all'estero e ti dicono, ah sì, Italia slow food, non è quello. Quindi secondo me l'investimento fatto funziona ancora. Poi il tema cementificazione e speculazione, ancora una volta io ho l'ambizione di pensare che questo paese non si trovi sempre invischiato in questo tema, che è un tema reale, è stato fatto un protocollo per il controllo sulle infiltrazioni della criminalità, per il controllo anche sulla salute e la tutela dei lavoratori con la prefettura, il Ministero dell'Interno, non so se funzionerà, le stesse cose le abbiamo fatte a Torino, però ecco, io mi auguro che l'alibi dell'interesse di pochi non continui a prevalere rispetto alla volontà di investimento di questo paese, perché sennò veramente è un'opinione mia personale, ma io mi chiederei che cosa sto facendo per attirare sui miei figli in questo paese, ma me ne torno in Belgio domani mattina a fare il funzionario europeo, almeno stare in un posto, insomma, magari con altri pericoli, come si sa del Belgio per i bambini, ma scusate la battuta, ma un po' più sani. Venendo al tema, il tema si è affievolito, sai che non so dirlo, perché è un po' come quando vedi i figli crescere e non ti accorgi che sono cresciuti, no? Te lo dice magari lo zio e la zia che dopo due mesi viene a vedere, oh mamma mia come è cresciuto, non so se si è affievolito. Il tema era parte fondante secondo me, forse si è un po' affievolito perché una delle figure che è mancata in Expo è di qualcuno che facesse uno sviluppo tematico vero e proprio, qualcuno che si intendesse del tema e cominciasse a elaborare in materia più concettuale e di visualizzazione del tema, mantenendo alto il profilo anziché correre dietro a cose più di bassa cucina, di bassa bottega, come hai detto tu, Giselle, questo è vero. Io ho consigliato questo più volte alla società, secondo me hanno bisogno di un grande di una figura di sviluppo dei contenuti, di un creativo che faccia anche proprio, se volete, il piano editoriale dell'Expo, di cosa si parlerà, quali sono gli eventi da portare dentro, quali le organizzazioni internazionali da coinvolgere nello sviluppo. E insomma, ci sono le avvisaglie, insomma, oggi stesso mi hanno chiesto dei consigli su una persona da tirare dentro di cui ho grande stima, che se mai fosse lui, non so, ma il tema degli investimenti, il tema di raccordo fra le istituzioni, lo dico con altrettanta sincerità e franchezza, devo dire che sono stato, ma Gisella lo sa benissimo, per questo mi ha fatto la domanda, abbastanza basito da Milano, dalla Lombardia, cioè lo dico da piemontese, quindi tu dici esalti la tua regione anziché, non è vero, io ho studiato a Milano, mi sono lavorato a Milano, ho iniziato a lavorare lì, ma considero molto più la mia città di Torino. E sono venuto via da Torino dicendo, però sti piemontesi che palle, i torinesi, questa visione provinciale, però c'era questa grandissima senso dell'istituzione dello Stato, che per la verità comincia a mancare quasi dappertutto in Italia e che non so come in quest'isola non felice perché ci sono tanti casi negativi, ma almeno sulle Olimpiadi c'è stata una grande coesione istituzionale, anche un non metterla al centro dei temi elettorali, perché anche da noi ci sono state elezioni provinciali, comunali, regionali. Mi ha un po' sconvolto questa realtà milanese, sì, di grande disgregazione, di grande incapacità proprio di gestire la governance di un evento del genere, che poi alla fine richiedeva una cabina di regia, secondo me, dove si sedevano come a Torino, la regione, la provincia, il comune, i ministeri importanti, i comuni montani, e insieme si pigliavano le decisioni che la maggior parte delle volte erano dettate dal buon senso, no? Si era trovato l'amianto nelle rocce a Ulx, dove si doveva posizionare l'impianto di Bo, oddio cosa facciamo, e dopo un po' si è andati a cercare tutti assieme un altro territorio, cercando di spiegarlo a chi aveva perso questo impianto, a chi doveva invece accoglierlo sul suo territorio, magari non lo voleva, però ecco il buon senso di istituzioni che guidano. Questa mi pare molto mancata, mi pare molto persa su personalismi, e per questo sono stato veramente felice di una scelta che, vi assicuro, detta così la raccolti, ma non è da tutti scendere dal carro dei vincitori quando sei stato il direttore, e nessuno me l'ha chiesto, insomma io per il 2 aprile ho detto vabbè, vi saluto tutti, forse mi sono consultato con Gisella all'epoca, ho detto io così non vado avanti, e devo dire che ci ho visto lungo, però rimane secondo me un'occasione fondamentale per il territorio. Cosa può fare Como? Como può fare tante cose, e mi sembra già tantissimo se uno, a parte il fatto che voi, lo dicevo già prima, magari voi comaschi non percepite anche la grandezza dell'essere una città su uno dei posti più belli d'Italia e del mondo, cosa che deve arrivare uno da fuori a dirvelo probabilmente. Però probabilmente lavorare molto sull'accoglienza della città, sulla rete urbana, sulla capacità di lasciare un bel ricordo, oltre che su tutti i progetti che danno anche un contenuto di sostenibilità al territorio, e quindi una città che sa mettere insieme agricoltura e sviluppo sostenibile, e quindi se vogliamo la sovranità alimentare, come ci ha declinato appunto Andrea. Milano su questo sta facendo un po' onestamente il suo sforzo, adesso è una visione quella del discreto, innanzitutto la seconda città agricola d'Italia, molti non lo sanno, ma come produzione valore aggiunto è la seconda d'Italia. Secondo, col distretto agricolo milanese, col progetto Orti Urbani e Cascine, si sta cercando di immaginare un percorso di riqualificazione e di utilizzo di queste strutture, in parte abbandonate, in parte gestite da privati, ma che possano essere messe in rete per in circuito per la produzione con modelli di alimentazione sostenibile. Non so se ci si riuscirà, comunque il comune è abbastanza determinato sotto questo punto di vista. Sono modelli che anche Como potrebbe desumere e eventualmente tentare di sviluppare. Grazie a Roberto. Pronto? Sì. Grazie Roberto, io passerei ora la parola ad Andrea per alcune altre domande che erano state poste, in particolare la questione della nicchia, del cibo di nicchia, che se non esce però dalla nicchia poi rimane, come diceva Marco Servettini, un cibo per ricchi. E la seconda era relativamente al piano di governo del territorio, come si può intervenire sul PGT per dare spazio a queste nuove forme di produzione, comunque per dare spazio a un modo più sostenibile di nutrire la città. E a te la parola. Dunque, allora, quando prima ho parlato mondo FAO, questa riforma del consiglio piuttosto che invece esperienze micro in Lombardia, ho usato diverse volte la parola di dare voce, no? Non ho usato tanto la parola partecipazione, ho usato la parola di dare voce ai diversi soggetti che... Allora, la prima cosa che può fare Como è esattamente questa cosa, dare voce. Nel senso che proprio per cogliere anche lo stimolo di Expo, no? Expo è un percorso che si fa verso, ed è qualcosa che dura alcuni mesi con delle attività molto intense e poi qualcosa che rimane dopo. Sono molto, molto, molto, ma molto d'accordo col tema, con quello che diceva prima Gisella, ma che ha ripreso anche Roberto. Abbiamo perso la coesione in questo territorio ed è una cosa veramente molto lombarda e molto milanese. Intendendo dire milanese, intendo dire quel qualcosa di abbastanza simile ai 90 minuti di prima. Cioè, quando si va verso Cremona Mantova le cose sono già un po' diverse, no? Io sono milanese, Milano è un disastro da questo punto di vista della coesione, no? E effettivamente, come dire, c'è molta retorica nel Milano col cuore in mano e anche un certo spirito lombardo. In realtà nelle forme del governo si è persa veramente, cioè, si sono persi veramente il senso di alcuni consigli comunali, vabbè, ma proprio anche dal punto di vista tecnico. Io lavoro costruendo, quando si riesce a farlo, appunto in Regione Lombardia non è facile farlo, costruendo regie territoriali per politiche di sviluppo, quindi facendo proprio il lavoro di aggregazione degli attori istituzionali, economici, associativi, sociali e quant'altro, per pensare insieme un'idea di sviluppo e poi articolarla, no? Programmando delle politiche. Questa cosa è maledettamente difficile da fare in Lombardia, perché non c'è mandato istituzionale per farlo. Cioè, abbiamo perso questa idea della coesione, e quindi anche quando Roberto diceva cosa ho visto di diverso da Torino, no? È un po' questa cosa. Ci siamo dimenticati un po' di Asburgo, mannaggia, che ci hanno dato il catasto, cioè Maria Teresa d'Austria era un'imperatrice che stava molto lontano, ma in realtà aveva organizzato l'istituzione, no? L'ordinamento sabaudo invece, che era per certi versi molto meno brillante degli Asburgo, invece forse ha lasciato delle cose, se ne può riparlare. Quindi ricostruire coesione mi sembra la prima cosa che può fare una città come Como, a partire da questa stimolazione dell'Expo, il cibo. Allora, qui un'esperienza, molte esperienze da cui prendere sono quelli che gli americani chiamano i Food Council. Negli Stati Uniti e un po' in Canada, io ho contato poco meno di un centinaio di Food Council, cioè consigli, pezzi di consiglio comunale, no? Che lavorano sul tema del cibo, aprendo, dando voce ai soggetti che in qualche modo hanno a che fare col cibo. Sono esperienze di Food Council con i consigli sul cibo affiancati ai consigli comunali che danno voce ai soggetti, che siano i genitori dei bambini che vanno a scuola, che siano gli agricoltori, che siano i commercianti che distribuiscono il cibo, che siano quelli che fanno educazione alimentare, che siano quelli che fanno eccetera eccetera. A dare voce vuol dire provare a ripensare a partire dallo stimolo del cibo, che è un punto di vista interessante, chiave della sostenibilità, perché si porta indietro tutti questi temi. La prima cosa è fare questa cosa, cioè parlare del cibo, dando voce. L'altra cosa molto concretamente che si può fare è lavorare sulla ristorazione scolastica. Questa cosa un comune la può fare, è una cosa che non costa, nel senso che va pensato in modo diverso il meccanismo di gestione interna, come nel caso del comune di Como, che è uno dei pochi grandi comuni che tiene ancora internamente la gestione delle mense e non lo esternalizza, ma anche per chi lo esternalizza, pensare il sistema della ristorazione istituzionale è un tema chiave, perché se la pensi con una regia comunale, tieni insieme la politica educativa con quello che effettivamente poi mangiano i bambini, e questo richiede già un piccolo passettino, perché chi fa l'educazione alimentare è la scuola e non il comune. Invece chi organizza la ristorazione scolastica è il comune, quindi spesso i bambini mangiano delle cose anche buone, nei casi belli ad esempio, no? Milano è un caso cattivo da questo punto, Milano ristorazione è un pessimo esempio, noto ai nutrizionisti, noto agli esperti di mense, come uno dei peggiori esempi di ristorazione scolastica. Como è messa decisamente meglio, ma un problema è che i bambini anche quando mangiano bene non sanno veramente bene cosa mangiano, perché chi fa l'educazione alimentare sono le scuole, che magari lo fanno fare gli insegnanti, magari lo fanno una cooperativa, associazioni esterne, ma non sono le società di ristorazione. E ripensare la ristorazione scolastica vuol dire articolare un percorso educativo e fare una politica pubblica ispirata ai principi della sovranità alimentare, ma gestita pubblicamente, ancorché di mercato, quindi una cosa anche un po' particolare, in cui se io costruisco il mio bando e il mio contratto di servizio, barra capitolato d'appalto, chiedendo prodotti bio, certificati, non certificati, come li certifichiamo? Li certifichiamo una certificazione partecipativa? Coinvolgiamo le persone, coinvolgiamo i produttori per definire che cosa vogliamo mangiare, con che qualità? Allora, qui si apre tutta una serie di attività molto interessanti che sono sempre di dar voce ai soggetti, ma che sono una politica economica che il comune può attivare. Il comune istituzionalmente non si occupa di, direttamente di politiche economiche, tanto meno di politica agricola nell'ordinamento europeo italiano, non è una politica del livello istituzionale comunale, ma se tu incominci a dire voglio cibo locale, poi locale bisogna capire cosa vuol dire, allora parliamo insieme in questi consigli, no? Però posso diventare un motore significativo di economia. Perché se a Como sì, ci sono nelle scuole pubbliche 3-4.000 pasti al giorno, vuol dire che ogni giorno devono venire 3-4.000 mele, 3-4.000 uova, 3-4.000 di tutto, no? Questa cosa è una mobilitazione dell'economia. Io non faccio economia assistita, metto a bando delle cose e poi vince il migliore, ma io faccio questa cosa nella relazione con i soggetti del territorio, che siano i genitori, che siano i bambini, che siano i produttori. È un modo di articolare la sovranità alimentare dal punto di vista del comune. Altre cose, i regolamenti del commercio. In molti comuni, non solo la situazione di Como, ma in moltissimi comuni non si possono fare mercati dei produttori perché il regolamento del commercio locale non lo prevede. C'è un po' da far ragionare anche i commercianti su questo, insieme agli agricoltori, insieme agli assessori al commercio, c'è una serie di persone che devono ragionare un po' insieme. Però anche questa è una politica, diciamo, a costo zero, no? Si può fare anche in tempi di crisi, perché non costa, è una revisione di un regolamento. L'altra cosa è il PGT, allora, qua ovviamente non voglio aprire grandi cose, però vi lascio qualche flash. Così come ci sono, dicevo prima, censito solo negli Stati Uniti, poco meno di un centinaio di questi food council, cioè consigli, pezzi di consiglio comunale che lavorano con apertura alla società civile per ragionare su tutte le politiche comunali dal punto di vista del cibo, cioè la politica educativa, la politica sociale, in cui ci sta dentro, tra parentesi, il tema del, no, lo dico dopo, il tema del cibo di qualità per le persone con poche possibilità finanziarie, ma il tema dell'ambiente, il tema, allora, i food council si occupano di pensare dall'ottica del cibo, e questo può essere un messaggio interessante dell'Expo, come si nutrono le città, come rivedere le politiche a partire da questo punto di vista. Ci sono un buon numero di città del mondo che si stanno attrezzando, che si sono attrezzate per pianificare la propria città, pianificare proprio come la intendiamo noi, è anche un po' vecchia maniera, cioè le belle funzioni pensate sul territorio a partire dal cibo. Allora, c'è nella CGLU, che è la, diciamo, la Confederazione Mondiale degli enti locali, che è la rappresentanza all'ONU dei comuni, sostanzialmente la rappresentanza riconosciuta delle città all'ONU, c'è un gruppo che si occupa, è un club di grandi città che si occupa esattamente di questo tema, come approvvigionare le grandi città, si parla di San Paolo del Brasile, si parla di Lione, no? Quindi c'è già una rete mondiale di città che si stanno occupando di questa cosa. Io ho provato un paio di volte, sia con il presidente del comune di Milano, sia l'amministratore delegato di Expo, per un po' di persone di questo tema, perché non ci gemelliamo, non ci connettiamo. Ci sto ritentando adesso, forse è la volta buona, ma tanto per dire che bisogna un po' costruire questo tema, perché bisogna apprendere a come pianificare una città. Però ci sono, ne nomino una perché mi piace molto, una città che è sicuramente interessante anche di un taglio per ragionare anche in termini di consumo di suolo, che è un tema che a me non piace come definizione, ma che è un tema che ha bucato lo schermo, quindi va bene, che è una città olandese di 200.000 abitanti, Brescia praticamente, esattamente come Brescia, quindi non stiamo, che è stata progettata da zero a partire dal 1973, in uno di quei polder, i due polder, no? quelle terre che sono emerse, che hanno fatto emergere gli olandesi facendo la diga sulle Zuiderse, no? Quindi terra emersa, perché il tema del suolo prezioso che non va consumato perché è proprio poco, anzi ce lo strappiamo dal mare, è un tema proprio degli olandesi. Questa città è stata programmata a partire dal cibo, soprattutto negli ultimi 15 anni, nei primi 15 sì anche, però meno, comunque la città è stata fondata con una fattoria, è stata pianificata, è appena fuori Amsterdam, quindi è un po' come la stessa San Giovanni di Amsterdam, tanto per essere un po' duri nel paragone, no? Si chiama Almere, c'è un articolo sulla rivista, diciamo, complementare a quella di Valori, che è Altra Economia, di qualche mese fa, che è interessante perché lì è stato fatto proprio un ragionamento. Vogliamo costruire una città che sia, diciamo, tendenzialmente autosufficiente dal punto di vista alimentare ed energetico, tendenzialmente nel senso che non si mira all'autarchia, ma la prima cosa che è stata costruita è stata una fattoria con 12 case intorno. Questa fattoria è più o meno al centro di questa città. Questa città è una città dove si stanno insediando, si sono insediate tutte le solite Hewlett Packard, Sony, industria d'alta tecnologia, perché si attira tutto quello che si può attirare, c'è la metropolitana, si è fermato del treno, eccetera, eccetera. C'è tutto quello di interessante, di tecnologico che ci può essere nella città, ci sono pure grattacieli, e però ogni espansione di questa città, che si espande di 30.000 abitanti ogni 5 anni, i quartieri ormai da 15 anni vengono progettati a lotti tipo da 5, 6, 7 mila abitanti ciascuno, con 3, 4, 5 fattorie. Tutte queste fattorie hanno l'obbligo di produrre cibo per gli abitanti, poi ciascuna fattoria ha una sua declinazione, una fa più ospitante una scuola, l'altra è sede di un albergo, l'altra è sede di qualche cos'altro, eccetera, eccetera. Quindi il tema della multifunzionalità dell'agricoltura è un fattore strutturale. Lì è interessante che la Camera di Commercio, c'è tutto un patto col governo, Camera di Commercio, Comune, eccetera, eccetera, per cui ho bisogno di 5.000 abitanti che saranno anche loro un po' elettricisti, un po' falegnano, un po' costruttore, un po' questo, un po' quello. I mestieri si costruiscono in mano che si costruisce la città. Allora, questo è un modo molto spinto di pianificare in scarsità di risorse, perché la terra è poca, e quindi la terra è poca, e quindi si pianifica tutto. Ma è interessante che questa cosa è fatta, cioè pianificazione in senso, ormai non è più l'epoca sovietica, non si parla di quella cosa lì, si parla di un accordo di, appunto, di coesione sociale tra diversi soggetti, una buona governance, come si dice adesso, in milanese, in cui tutti concorrono a costruire un'economia sulla città che cresce. Qui non si rinuncia a una città che cresce, semplicemente invece di avere, come ha avuto Milano anche negli ultimi anni, dei quartieri giganteschi di cui non si sa bene, no? La sostenibilità, tante cose, il quartiere ha pensato insieme alla sua agricoltura, perché il tema del nutrire nella misura giusta, per cui loro sono fino un po' fastidiosi, no? Perché tu vedi, bellissima questa fattoria, guardate quanti animali, quante mucche, fa, no, non sono tante queste mucche, sono giuste, perché se ci fossero più di così avremmo bisogno di molti campi per dare foraggio a queste mucche, quindi noi, è un problema per noi la terra, il consumo di suolo dato dall'allevamento per un certo stile di vita. Allora noi abbiamo quel giusto di mucche per fare latte, formaggio, queste cose, un po' di carne, l'apporto proteico ce l'abbiamo con i legumi che stanno là in fondo, e allora ci fanno vedere le cose. Allora questa cosa è, tra l'altro, come vengono fatte queste cose, a proposito di distretto agricolo milanese, vengono fatte che ci sono delle proprietà lì e terra demaniale, perché è tutta fatta emergere dalle acque, quindi cosa fa il comune? Dice: io voglio ottenere questi obiettivi nelle mie proprietà, voglio avere fattorie di questo genere che nutrano, che fanno generare, che facciano l'albergo. Chi ci sta a metà sotto il dito? Viene messa a bando e vince l'agricoltore che presenta la proposta migliore, che poi ha l'affidamento per 20 anni di questa cosa. E quindi è una gara all'innovazione, a costruire la città fatta in questo modo, dove tutto sta insieme, l'energia zero, eccetera, eccetera. Allora, al Mer la cito perché mi piace, 200.000 abitanti come Brescia, mi piacerebbe parlare di queste cose, Brescia, bellissimo. Però è per dire che sono cose, no? Perché anche noi non possiamo fare a Como un quartiere così? Adesso Como non si espanderà di 5.000 abitanti, però è una cosa poco. Milano avrebbe potuto farla con i pochi quartieri, no? L'esperienza del distretto agricolo milanese, io l'ho seguito un po' all'inizio, è una cosa su cui si può fare molto da questo punto di vista. Cercando di farlo, però l'idea è che ci sono delle proprietà dove il comune può attivare queste cose. La chiave mi sembra sempre un po' questa cosa qua, della lavorare sul tema della coesione, cioè queste cose funzionano quando si riapre il patto con la città, e quindi come dire, il cibo non è quella cosa per... Ma, allora dentro questa cosa, adesso chiudo, ci sta forse anche la risposta al tema della povertà. In realtà, nella mia esperienza, allora, è vero che certo cibo, il cibo biologico, che è un modo di pensare il cibo di qualità, perché il biologico in Europa si marchia con solo quel marchio lì, che è previsto solo in Unione Europea con certi parametri, ovviamente se ne può parlare, di quali sono quei parametri. Ad esempio il riso, certo che se tu hai l'acqua inquinata non puoi marchiare, la tua azienda non può farsi carico di un bacino fluviale inquinato, però quel riso lì può essere bio. Non dico giusto o sbagliato, dico che bisogna un po' parlarne, no? Ecco, dentro questi marchi bio che si portano, il marchio bio in Europa che si porta dietro dei problemi, c'è anche il fatto che quello non è l'unico modo di pensare il cibo di qualità, quindi è chiaro che quel bio li costa e quindi non è per le persone che non hanno tanti soldi. La mia esperienza è che c'è in giro un sacco di, anche in Lombardia, un sacco di produttori che fanno produzione di qualità. Dal punto di vista dei parametri che abitualmente vengono marchiati come prodotti bio, fanno le stesse cose, pesa anche di più, non lo marchiano perché costa, ad esempio, perché costa il consulente, perché costa la marchiatura, il monitoraggio, qualcuno non è anche d'accordo con quei parametri, e io in mente, ma anch'io stesso con il mio grasso, io acquisto il cibo biologico allo stesso prezzo con cui compro al supermercato il cibo normale, no? In qualche caso anche spendendo di meno, così. Allora la risposta al tema che proponeva Marco è quello: dipende chi decide i meccanismi, come si decidono i meccanismi, e in realtà, se voglio usare un'altra argomentazione, io sul territorio vedo anche delle cose molto diverse, no? Vedo che se riesco a organizzare localmente dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo che governano con delle regole un po' diverse, i valori sono un po' diversi, quindi anche i prezzi sono un po' diversi. Allora questa cosa, sempre a proposito di dare voce ai soggetti, anche sul territorio lombardo, mi fa dire, come dire, ho in mente, abbiamo in mente, insomma, ne possiamo parlare altre volte, tante situazioni in cui il tema del prezzo non è un tema, e questa cosa è una cosa di cui si discute in giro in tutto il mondo, e quindi il tema del cibo sano è anche quello di provare a uscire dalle regole tradizionali del mercato, no? Il quale mercato anche lui ha i suoi problemi, no? Il tema dell'etichetta bio, adesso ho usato delle tinte un po' forti, ma è anche un po' così. Sì, direi basta, magari facciamo un altro giro di... Sì, grazie ad Andrea. Direi che abbiamo spazio ancora per due domande. Prego. Una domanda, come dire, una piccola precisazione. Circolata da voi la domanda, sì, che cosa può fare il territorio comasco in rapporto ad Expo. In realtà, lo dico a titolo personale perché faccio parte di un gruppo di lavoro che è con Camera di Commercio, qui c'è Pina Sergio, che ben più autorevolmente di me rappresenta la Camera di Commercio, lavora per creare un rapporto privilegiato tra le aziende, per esempio, e l'Expo. Tutto questo, voi sapete, è partito 3-4 anni fa, quando è iniziato il grande Circo Expo, quando peraltro Carioni era stato eletto nel Consiglio di Amministrazione, mi pare è uscito in questi giorni, e questo sembrava un ponte e una facilitazione enorme per il territorio, che invece in realtà non è stato. Dopo un momento di pausa è stato creato un tavolo, si chiama così, al quale partecipano Camera di Commercio, Comune di Como, Provincia di Como, i maggiori comuni della provincia e tutte le associazioni di categoria. Qui, in questa sede, nel mese di ottobre, mi pare, dell'anno scorso, abbiamo presentato, e poi anche in altre sedi, il progetto di collaborazione che si chiama Sistema Como 2015. Si è fatto quindi qualcosa, non sta a me di solito difendere le istituzioni, questa volta un po' mi tocca, e anche con una certa fatica, nonostante le numerose amministrazioni in caduta libera, perché sono elezioni un po' ovunque, abbiamo tenuto duro cercando di coinvolgere sia il livello istituzionale che il livello invece delle associazioni, alle quali di categoria, alle quali abbiamo chiesto un contributo diretto. Ci siamo già riuniti 10 volte, 11 volte, non so, ci riuniamo circa ogni 3 settimane e cerchiamo di collaborare per fare in modo che Expo non sia quell'ente metafisico strano e irraggiungibile per le aziende, parlo, non parlo del tema, del rapporto col tema, eccetera, che è un altro discorso, ma per ottenere un rapporto di lavoro, non dico privilegiato, ma un rapporto che possa dare all'azienda partecipante il senso di una partecipazione motivata. Cosa significa? Che abbiamo preteso dalle associazioni di categoria e delle aziende che partecipano una qualità. Abbiamo incominciato a porre dei parametri che sono quelli che pone anche Expo per poter intervenire eventualmente negli appalti, eccetera. Questo ci è sembrato il primo passaggio, al quale poi seguiranno altri percorsi, altri passaggi nel corso di questi non moltissimi anni, perché il tempo è poco, i giorni sono poco più di 1000, e quindi si sta lavorando anche da questa parte con a grande velocità. Expo è stata molto disponibile e ha portato qui i primi rappresentanti dei primi 50-60 paesi a ottobre. È stata anche una grande festa, ma un'occasione di incontro e anche una verifica delle capacità organizzative del nostro territorio. Peccato che molti di voi non sappiano questa cosa, anche perché, piccola nota polemica, visto che faccio anche il giornalista, quindi vabbè, la stampa locale, di cui non mi fiderei nel senso per principio, non abbia in alcun modo dato risalto alla idea. Ci sono dei difetti e questi vanno anche criticati per migliorare, ma l'idea, cioè di collaborazione di un territorio nei confronti di Milano per inventare soluzioni di accoglienza, di lavoro, di assistenza, eccetera, eccetera, ci sono, corrono per queste strade, con un po' di fatica, però ci sono e i risultati si cominciano a vedere. Martedì prossimo a Villa Olmo avremo la prima riunione di questo anno ufficiale con tutte le associazioni di categoria e alcune aziende, in rappresentanza delle aziende, non possono evidentemente venire tutte perché le iscritte a questo, diciamo, progetto sono già 150. C'è un sito www.sistemacom2015.it che incomincia a creare un minimo di collegamento tra la realtà milanese, la realtà comasca e il sistema produttivo. Grazie mille. Posso cosa? Sì, no, volevo semplicemente dire a Gerardo Munizzo che ovviamente sappiamo di questa iniziativa di Forum 2015, tra l'altro c'era anche un invito al massimo responsabile di questo sistema che per scelte sue non ha ritenuto di essere presente questa sera, quindi sicuramente questo è un'esperienza che abbiamo presente. Fra l'altro si ricollega con un pezzo del discorso di Expo che non è stata riproposta in questa occasione per la brevità di tempo, che è l'accordo fatto, questo sia a livello regionale, di pubblicazione progressiva dei bandi di gara che si aprono, che sono all'inizio per le opere più significative, ma man mano si aprono quelle di importo minore, quindi c'è questo lavoro di far circolare. Per cui sicuramente è giusto, e ti ringrazio di aver sottolineato anche queste opportunità. Sicuramente io personalmente ritengo che rispetto all'importanza del tema e alla sua vastità, questo è un esempio meritorio e limitato, perché ad esempio su scala regionale, così come avrebbe dovuto fare, secondo me siamo lontani dall'averlo fatto. Penso che quello che manca, ma in un rapidissimo incontro che abbiamo fatto prima di questo incontro pubblico anche con le categorie economiche, mi sembra che venga confermato che quello che è non solo il lavoro delle imprese e il lavoro di raccordo che la Camera di Commercio fa e fa molto bene, ma il raccordo fra istituzioni, questo sia lontano dall'essere ottimale. Ricordo il commento di un commerciante che proprio la settimana prima dell'arrivo della delegazione, dei rappresentanti delle delegazioni estere, si lamentava del fatto di avere fatto delle proposte al comune perché ci fosse un piano minimale di pulizia delle facciate a carico loro, di pulizia delle facciate degli edifici, proprio per dare bella mostra di questo loro arrivo, e che questa proposta non era nemmeno stata presa in considerazione. Quindi giustissimo, e ti ringrazio di aver sottolineato questo lavoro che è sul versante delle imprese. Credo che ci sia da sottolineare ancora una volta che però anche gli esempi più avanzati di alcune istituzioni a poco possono arrivare, tant'è che magari non vengono neanche conosciuti, se a fianco non ci sono gli interventi delle altre istituzioni. E questo, ahimè, e lo dico senza, con forza, perché credo che questa sia proprio la scommessa più difficile che abbiamo davanti noi, purtroppo uno degli elementi di debolezza del sistema Como è proprio quello di istituzioni che non hanno saputo dialogare e costruire dei progetti strategici più ampi di loro. E questa è una situazione che in un quadro regionale senz'altro non esaltante pone però Como a uno dei punti più bassi della graduatoria. In altre province, e questo è un po' il riferimento che noi vogliamo avere per la nostra azione futura, sicuramente si riesce a realizzare di più. Comunque, senz'altro, grazie per questa per aver ricordato questo fatto. Tra l'altro credo che fosse stato organizzato un incontro di Villa Erba, proprio appunto questo ti riferivi, delle delegazioni, con il coinvolgimento della società. Sì, sono una cosa molto breve. Rispetto a iniziative tipo questa, volevo richiamare, se Roberto mi permette, cioè una cosa che mi è piaciuta di quel richiamo che lui faceva prima, questo tema della linea editoriale, cioè necessità appunto di ritrovare o ripensare, diciamo, il cuore della proposta di Expo, è proprio una cosa da fare, ed è una cosa, perché è una cosa che è mancata, no? E questo tema qui, no? Questo obiettivo del costruire una linea editoriale, e ve lo dico come obiettivo, nel senso che dovrebbe essere un elemento di partenza, in realtà il processo nel quale si costruisce poi la linea editoriale, la si condivide, è un altro pezzo del dare voce alle diverse componenti del territorio, è una cosa che a mio parere va proprio fatta sia a livello di Expo centrale, no? E anche io ne ho sentito molta la mancanza, ma anche in tutti i tavoli territoriali, no? Di questo tipo, o che si possono costituire anche in ambito extra istituzionale, oppure con tutti gli intrecci del caso, nel senso che capire qual è la pertinenza del tema, no? Il cibo come punto di vista, no? Quindi lo stimolo di Expo di ripensare appunto agli obiettivi del millennio, si diceva prima, quindi gli obiettivi ancorché disattesi ma comunque presenti, è una cosa che stimola, che interroga anche il tipo di economia che c'è nel territorio, no? Quindi questo tema della linea editoriale che Roberto diceva mi sembra mancata negli ultimi anni in Expo, e su questo sono assolutamente d'accordo. Lo stesso tema lo proporrei a tavoli tipo questo ed altri, no? Nel senso che appunto quando si diceva prima ci sono fermenti in giro per il mondo, ma anche in Lombardia, di ripensare la logistica a livello locale vuol dire proprio ripensare, no? Voi credo che tutti sappiate, il mondo della logistica occupa, si diceva prima, delle quantità di suolo spropositate, producendo pochissimi posti di lavoro. È una cosa che ha un grande consumo di suolo, perché la logistica trasferisce per tutta una serie di meccanismi suoi organizzativi interni, ma anche dal punto di vista fisico, no? Viene sempre imposta in qualche modo ai comuni a partire da logiche straordinarie, tipicamente. Chi fa piani lo sa che è molto difficile ragionare, mettere in discussione i poli logistici, no? Pensare al cibo come modo di pensare ad esempio la logistica vuol dire pensare completamente in modo diverso al rapporto tra attività economiche e produzione di lavoro, nel senso che la logistica locale richiede appunto un contatto diretto, la prossimità, vuol dire ripensare reti di imprese piuttosto che imprese concentrate che poi magari sono pezzi di finanziarie, no? E lavorare proprio sull'innovazione organizzativa, che tra l'altro proprio, no? Che cos'è il lavoro di rete? È una delle frontiere del lavoro, no? Il lavoro condiviso, il lavoro di rete, il lavoro anche che fa, cioè non stiamo parlando del salame in cascina adesso, stiamo parlando proprio di meccanismi innovativi molto interessanti. È un po' la rivoluzione, il cambiamento che ha portato la Toyota nei confronti dell'organizzazione del lavoro fordista, no? Per cui le macchine si facevano tutti in modo concentrato, siccome al Lingotto di Torino una volta la Toyota ha detto no, la produzione di fluido dispersa, c'è l'elettronica, non ci sono i magazzini, si fa la produzione just in time. Quello che sta succedendo nell'innovazione delle reti, che vanno dalle reti di economia solidale, che vanno dalle reti di produttore, che vanno da strumenti che in Francia e da altre parti stanno facendo, è questa cosa qui, lavorare sull'innovazione organizzativa che ripensa al lavoro radicato territorialmente, no? Allora, questo è un modo per dire, rispetto sulla logistica e la distribuzione, in cui il cibo è un punto di vista per ripensare tutta una serie di cose, no? Allora, il tema della linea editoriale è proposto anche in questi tavoli. Grazie. Un'ultimissima domanda. Chi se la giudica? Nessuno. Bene, allora a questo punto chiudiamo qui la serata. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio tutti i nostri ospiti e alla prossima.